notti è il peggio. Ci ha già fatto prendere subito un magone. Ragazzi, ma io non vi sento. Io non vi sento. 30 secondi alla diretta, vai. I microfoni che non vanno. Ale, che bello. Si scoprì che aveva i capelli negli orecchi. Oh, ti sento. Ora sì. Maschio. Sì. Ragazzi, bentornati all'Old Time Rock and Roll. Bentornati. Allora, subito, io direi subito di iniziare. Dicendo che ce ne manca uno anche oggi. Sì, guarda. Ne manca proprio uno. Chi è? Aspetta, appello? Appello, dai, appello. Allora, io, Patro, ci sono. Luke? Sì. Io, il nanno c'è. E il biondo c'è. E il biondo c'è. Chi manca? Manca quella sciacca del Bindi, Matteo. Che è andato a Roma a far finta di lavorare, insomma. Però guarda, sembra quasi serio. Dimmi, tipo, dove è andato il Bindo? È andato a Roma a lavorare. Sembra quasi... È vero, fa strano. Fa molto strano. Albergo 4 stelle. Tutto pagato. Statali. Maledetti. Anche le bevute in discoteca gli parlo. E forse anche qualcos'altro, non lo sappiamo. Boni, calmi. Due minuti, aspettiamo ancora. Va bene, ragazzi, anche questa settimana non abbiamo un compleanno. Sì. Io è due settimane che mercoledì non nasce più nessuno. Vabbè. Abbiamo scelto il giorno sbagliato. No, vabbè. Comunque, beh, continuiamo sempre con la storia del rock. Sì, si fa un po' come ci pare a noi. Esatto. Anche perché se non vi sta bene, ascoltate su Baggio. Ecco, Ale? Non è che c'è tanti... Radio. Sì. Continuiamo sempre con la storia del rock. Facciamo subito la rubrica della storia del rock. Sì. Parliamo sempre del 1968. Sì, perché se doveva fare il 68, ma... Esatto. No, ce n'era troppe fuori settimana scorsa, se rifà il 67. C'era troppa buona e bella musica per andare subito al 68. Quindi assolutamente. Questa è la seconda parte del 67. Siccome, ritornando al discorso di prima, che noi facciamo come ci pare, riparliamo del 67. E settimana prossima parleremo del 1968. 902. Così, perché ci pare. Allora, possiamo iniziare, via. Sì. Allora, iniziamo parlando di Van Morrison. La prima incisione del cappellaio matto di Belfast, lontano dai Dam, avvenne nel 1967 con l'album Blowing Your Mind. Al suo interno si trovava un pezzo che si intitolava Brown Skinned Girl, letteralmente ragazza dalla pelle marrone. Essa parlava infatti della storia d'amore tra Van e una ragazza di colore avvenuta in gioventù. Van venne però convinto a cambiare il titolo originario in virtù di un potenziale pericolo di censura a parte delle radio, che nonostante i liberali anni 70 erano ancora piuttosto bacchettone. Fu così che la parola skinhead cambiò in hide. I problemi riguardo a questo brano però non finirono qui. Infatti, ma io potrò lavorare così. Attenzione, il primo ma io potrò lavorare così. Non ti radio. Si può fare nemmeno il solletico. No, te mi facevi gli occhioni dolci. No, ti facevo il solletico. È puntata, questa oggi è una puntata molto pulmino giallo. Sì, sempre. Sì, oggi vabbè, sempre, quando non è. Posso continuare? Andiamo avanti. Infatti si presentò un altro problema. Un verso della stessa diceva Making love in the green grass, mentre facevamo l'amore nell'erba verde. Noè. Ne sai qualcosa te, eh? Erba verde. Morrison fu costretto a cambiare anche questo verso e la casa discografica, la Bang Records, decise finalmente di far uscire il singolo, che ebbe un successo enorme. Piccola curiosità. Interessante, questo. Nel 2005 la Casa Bianca rese noto che nell'iPod dell'allora presidente George W. Guerrafondaio Bush, Brown Eyed Girl era uno dei brani più ascoltati. Posso dire una cosa? Sì. Ma di solito, cioè lui prima di decidere di iniziare una guerra ascoltava Brown Eyed Girl? La cosa è abbastanza... Io pensavo ascoltasse più tipo Iron Maiden o una cosa... No? Sai, i testi politici sono un po' strani. Era uno dei brani proprio più ascoltati dall'ex presidente. Ancora oggi, a distanza di più di 40 anni dalla sua uscita, la canzone riceve la prestigiosa onorificenza di Million Air Certificate, ovvero dove si attesta che le radio britanniche l'hanno trasmessa almeno 1 milione di volte durante l'arco di un anno. E ora ve la facciamo ascoltare. Van Morrison, Brown Eyed Girl. Days when the rains came down in skipping and a jumping. In the misty morning fog with our hearts that thumping in you. A brown eyed girl. Benissimo, questa era Van Morrison con Brown Eyed Girl. E ancora non riusciamo a capire come Bush possa fare le guerre con una canzone del genere. Più che altro la sciupa la canzone. Adesso vi facciamo ascoltare i Procolarum e vi sveleremo un che poi, piccolo aneddoto, quando la scorsa puntata facevamo la lista delle canzoni, sì. E io dissi, vai, ci sono i Procolarum. E tutti, chi? Scartata a priori. Invece poi riascoltandola, vista la nostra grande ignoranza, è un bellissimo pezzo. Comunque, vi sveleremo un piccolo aneddoto sulla loro canzone, A Winter Shade of Pale. In Italia uno dei primi ad ascoltare il brano è un certo Mogol, che all'epoca lavora presso la Dischi e Ricordi e che scrive un testo in italiano per i Dick Dick con il titolo Senza Luce. Che tradotto Patru, Dick Dick? No, Dick è con la K. Ah, è con la K. E non lo voglio tradurre. Buoni. Il disco viene pubblicato il 20 agosto e va subito al primo posto in classifica, restando complessivamente in hit parade per 17 settimane. Anche la versione originale dei Procolarum raggiungerà il primo posto nella classifica italiana, restando complessivamente 21 settimane nella hit parade. Caso quasi unico, perché una canzone di cui era già riuscita la cover. Le vendite in Italia saranno così elevate che Gary Brooker invierà una lettera ai Dick Dick ringraziandoli per le royalties che gli arrivavano come diritti d'autore dalla SIAE. Urca! Incredibile! Procolarum, A Winter Shade of Pale. When we call out for Bene, adesso continuiamo a parlare della storia del rock e adesso parliamo dei Turtles e della loro Happy Together. Allora, innanzitutto loro vivono nelle fogne, i loro nomi rispettivi sono Leonardo, Donatello, Michelangelo e Raffaello. No, quelle sono le tartarughe ninja. Ma non sono loro che vivono appunto Happy Together insieme nelle fogne? I Turtles tradotto significa tartarughe, però... Non sono loro? No, le tartarughe ninja perlomeno non hanno mai fatto un concerto, almeno credo. Vabbè, il loro manager era Splinter? Sì. Ah, okay. Vabbè, adesso comunque parliamo appunto di Happy Together, la canzone che nel 1967 scansò Penny Lane dei Beatles dalla prima posizione. Maledetti. E che rimase per 3 settimane sul tetto del mondo e che nessuno voleva. Eh sì, infatti era stata scritta da Alan Gordon e Gary Bonner. La canzone più odiata del mondo. Sì, la canzone più odiata del mondo. Che è stata sulle, su tutte le scrivanie di tutte le case discografiche. Quando fu fatta ascoltare ai Turtles, il demo era così consumato che il nastro era quasi illeggibile. I Turtles, che già avevano dedicato poca attenzione a Heavy of Destruction, rifiutando di farlo uscire come singolo, quando nell'interpretazione di Barry McGuire sarebbe divenuto un hit colossale, videro comunque la potenzialità dell'hit e decisero appunto anche di inciderla. Alan Gordon l'aveva scritta mentre faceva colazione, poco prima di andare a trovare suo padre che era divorziato. Forse fu quel pensiero a fargli venire in mente la storia di un grande amore di due persone felici insieme, appunto Happy Together. C'è anche da dire che le grandi canzoni non invecchiano, alcune immagini a volte sì, ma non per colpa dell'autore. C'è una strofa di questa canzone che dice: se dovessi chiamarti e investire 10 centesimi e tu mi dicessi che mi appartieni e mi tranquillizzi, immagina come potrebbe essere bello il mondo così felici insieme. Beh, allora, innanzitutto questi 10 centesimi sono il dime, ok? Una moneta che si infilava nei telefoni pubblici per fare le chiamate urbane. Ma si può dire dime? Sì, credo di sì. Non è una parolaccia, no? Comunque, si infilava appunto nei telefoni pubblici per fare le chiamate urbane, ok? Anche se ai tempi nostri, quindi ai tempi ai tempi nostri, quindi del cellulare, dei telefonini, tutto si riassumerebbe con un acronimo, ok? Anche se però svanirebbe tutto il romanticismo di quei 10 centesimi. È vero. Adesso i Turtles con Happy Together. I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me. Release my mind, imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. We'll be right back. Bene, e questa era Happy Together dei Turtles Ninja. Quindi ora torniamo a parlare della storia e parliamo dei Beatles. No. E di una loro canzone non conosciutissima, vero? No. No, per davvero? Niente. Penny per niente. Lane. Ah, come? Penny Lane. Sì. Ma sì. Si può dire Penny? Sì. Vabbè, questo è Lane. Se c'è ah, Lane, sì. Altre parole no, però Lane va bene. Dalle infinite strade che hanno dato il nome ad una canzone, Penny Lane è indubbiamente una delle più famose. In realtà il brano dei Beatles non parla di un'esatta via di Liverpool, ma di un runabout della città, più esattamente dello Smithdown Palace, all'incrocio tra Smithdown Road e Allerton Road, dove erano le fermate degli autobus che proprio Lennon e McCartney prendevano per andare in centro. Chi ha avuto la fortuna di visitare Liverpool e ha camminato a Penny Lane sa che si tratta di una zona periferica di scarso interesse turistico. Nell'immaginazione dei due Beatles corrispondeva però a un luogo della loro giovinezza, dei loro primi sogni. Nel brano, come ha ammesso McCartney, compaiono sia persone reali che fittizie. Il barbiere James Violetti di Siviglia. No, no, no. Violetti. Sì, classico cognome. È colui che si occupava di tagliare i capelli a George, Paul e John. Il banchiere senza impermeabile che guida la moto, come il pompiere che porta sempre in tasca una foto della regina, sono invece di pura fantasia. Nel ritornello i Beatles hanno inserito la finger pie, letteralmente torta di dita, che era un'espressione gergale e oscena comunemente usata dai ragazzi di Liverpool. Riguardo a quest'ultimo particolare, molte mesi dopo l'uscita di questo disco, le cameriere dei locali dovettero sopportare ordinazioni di Four of Fish and Finger Pie, ovvero quattro penny di pesci, di pesce e torta di dita. Vabbè. Sì. Una torta di penny. Penny Lane era stata originariamente concepita come parte di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ottavo album del gruppo, ma uscì prima come singolo a causa delle pressioni della loro etichetta discografica che voleva un disco degli Scarafaggi il prima possibile. Il video non fu girato a Liverpool, ma a Londra e a Seven Oaks, nel Kent, stesso luogo in cui era stato girato anche il video di Strawberry Fireflower. Entrambi i filmati sono stati menzionati dal MoMA di New York come esempio di video musicali ante litteram degli anni 60. E ora vi facciamo ascoltare Penny Lane dei Beatles. Wears a Mac in the pouring rain. Hey. Era Jimi Hendrix, Little Wing. Benissimo. Bene, adesso parliamo dei Doors. Oh, ladies and gentlemen. No, dillo bene. The Doors. The Doors. Love Me to Time è il titolo di una canzone del gruppo rock statunitense, appunto, The Doors, scritta dal chitarrista Robbie Krieger come Light My Fire, e fa parte dell'album Strange Days, uscito nel 1967. Strani giorni. La canzone divenne il secondo singolo estratto dall'album dopo People Are Strange. La noti, ovvero? Tutto strange. Tutto strange. Eh? Traduci People Are Strange. Ah, persone strane. No, la gente è strana. Vabbè, cioè, persone prima strane. Prima chiede l'osho, poi vuole la nave. Ah, giusto. Anche questa era detta da... Sì, sì, sempre da Lons, citazione di Jim Morrison, sì, certificato. In vacanza in Chiani, sì, sì. Comunque raggiunse la posizione numero 25 nelle classifiche USA. Ray Manzarek suonò la versione finale della canzone usando un clavinet, ovvero una versione moderna del clavicordo. Pensavo della clava, pensavo. Da non confondere però con il clavicembalo. Pensavo una versione moderna del bagno. Io non so assolutamente di cosa sto parlando. Comunque, secondo i membri della band, la canzone racconta l'ultimo giorno trascorso da un soldato con la sua fidanzata prima di partire per la guerra del Vietnam. Il testo dice: amami due volte, ragazza. Una per domani, una solo per oggi. Amami due volte, sto andando via. Gli Aerosmith hanno inoltre eseguito una cover di questo singolo, come tante altre band. Eh sì. The Doors, Love Me Two Time. Love me two time, baby. Love me twice today. Love me two time, girl. I'm gone away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two time, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two time, girl, last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Two time girl, last week, Senza canzone, vai. Niente, vai, niente. Allora, adesso smezziamo un po' la storia del rock, ok? La rubrica. Si squarta come un vitello. Bello. Bello. Ne parliamo più avanti, tra qualche minuto. E adesso apriamo il contest, ok? Quindi le canzoni che abbiamo messo su Facebook sono bello. La pagina della radio. E vi faremo ascoltare la canzone, appunto, che ha vinto. Allora, innanzitutto, vediamo un po'. Io avevo messo Jimi Hendrix. Sì. Ok. Hey Joe. Tu, Luke? Io avevo scelto Shoot Thrill degli AC/DC. E io che avevo scelto? Io Oasis con Don't Look Back in Anger. Tu ricordi te? Io e White Vasco. E il tecnico che manca? E il Chuck. By the way, the Red Hot Chili Peppers. Quindi, attualmente mi pare di ricordare la classifica così brevemente. Così, le prime due, tanto le altre erano retrocesse abbondantemente. Partiamo dal fondo. Mi sembra. L'ultima era. L'ultima quella del Bindi. Bindi. Quattro voti. Poi c'era quella del Masa. Ok. Quella dopo. La mia. 5 voti il Masa. Dell'ex sei, campione in carica. 6 voti dell'ex campione in carica che l'altra volta ha rubato. Quindi il Nanno. Nannotti. No. E rullo di tamburi. Attenzione. Rullo di tamburi. Bravo. Al secondo posto, Jimi Hendrix. Hey Joe. E quindi al primo posto il vincente è. The winner is AC/DC, Shoot to Thrill. Thank you. Bene, e questa era Shoot to Thrill degli AC/DC. No, di Iron Man. Di Iron Man. Infatti volevo ringraziare Iron Man per Tony aver Stark. Tony Stark. Grazie Anthony. Jarvis. Comunque era rubato anche oggi, il sondaggio. Perché, certo, quando non vince lui è rubato. Perché io avevo il voto dei rustici, l'altra volta valeva 200 voti. Fermo, ti spiego come funziona. Spiego. Il voto dei rustici l'altra volta valeva, ma siccome i rustici fanno come gli pare, sta solita non vale niente. Ah, fanno come il Milan, insomma, al campionato. Zan zan zan zan. Guarda, non tocchiamo questo tasto, fanno tanto le vittime e poi sono i peggio ladri sulla faccia del mondo. Cambiamo argomento. Patruzzi, a lei. Ecco, allora, riprendiamo con il 1967 e parliamo della prima grande canzone scritta da Stephen Stills. Non per Crosby, Stills, Nash e Young, ma per la prima band in cui lui e Neil Young hanno militato, i Buffalo Springfield. Attraverso una serie di immagini perfettamente a fuoco, Stills dipinge uno scenario di violenza imminente. Da una parte, uomini con un'arma, pronti ad intervenire. Dall'altra, invece, migliaia di persone nelle strade che cantano, canzoni, ballano e sollevano cartelli. Sembra una delle tante scene di contestazione studentesca o contro l'intervento in Vietnam. Secondo alcune interpretazioni, per gli anni hanno trovato credito la scena, una scena che in realtà è quella del Kent State University, quando la Guardia Nazionale dell'Ohio sparò contro studenti passanti, uccidendo 4 persone e ferendone 9. Beh, insomma, bel lavoro, vai. Come spesso accade, nessuno controlla e le voci si diffondono e nessuno si accorge che i fatti del Kent State University risalgono al 1970 e la canzone fu scritta e pubblicata 3 anni prima. Quindi allora non c'entra, assolutamente niente. Allora che l'hai detta fa, scusa? Niente, infatti basta. Vado via adesso. Vado via. Di che parla questa canzone? Parla semplicemente di un pub. Di un pub che ha chiuso, il Pandora's Box. Ma se poteva scrivere anche noi. Ha chiuso. E dove andava la gente a ubriacarsi? Di questi tempi, ma quello credo che a quei tempi un po' se lo trovavano. Comunque, appunto, la canzone parla di questo locale che chiude, un locale sul viale di Los Angeles. Ah, pensavo di Foiano. Beh, no, insomma. Amatissimo da ragazzi che avevano energicamente protestato contro, appunto, questa decisione. Quindi, niente di che. Ma come spesso accade, le canzoni a un certo punto si ribellano a chi le ha scritte e prendono una via tutta loro, molto diversa da quella che i genitori avevano programmato. Adesso Buffalo Springfield, For Want Is Worth. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. I think it's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Now, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Children, what's that sound? Erano i Buffalo Springfield con For What Is Worth. Ora parliamo dei Troggs. Love Is Around è appunto una canzone dei Troggs ed è stata cover di numerosi artisti, tra cui Rem, i Wet Wet Wet, per la colonna sonora del film del 1994, Quattro Matrimoni e un Funerale. Bellino, bellino. Bellino. Sai che non l'ho mai visto? Carino. Poi l'ho visto 3-4 volte. Quattro volte? Sì, erano di quelli di Hugh Grant, un po' romanticoni, un po' sdolcinati. Ma però... infatti ci abbiamo la puntata romantica. Però, ma infatti, sì, torna bene, dai. Cioè, pensavo sì. Il quale è stato un successo internazionale e ha trascorso ben 15 settimane alla numero 1 nella UK Single Chart. I Troggs, Love Is All Around. I feel it in my fingers. I feel it in my toes. So the feeling grows. It's written on the wind. It's everywhere I go. So if you really love me, come on and let it show. You know I love. No beginning, there'll be no end, 'cause all my love you can depend. I see your face before me as I lay on my bed. I kinda get to thinking of all the things you said. Questi erano i Troggs con Love Is All Around. Problemi di scaletta. leggo io. Ma di chi era quell'altro pezzo? No, tipo, cioè, il Luke che mi fa. Allora, questo lo leggi te. Io mi giro tipo lentissimo il collo, lo guardo e gli faccio io. Sì, no, ma vedi, qui è il controllo. È blu, è blu. Io. Vabbè, abbiamo stampato due scalette differenti. Bene, bene. Buono lo stesso. Insomma, Luke. Come direbbe Davide. Se è deciso democraticamente che vado io. Ok. Sì. Illustraci. Adesso parliamo dei Rolling Stones con Ruby Tuesday. Anche se, come da prassi, accreditata a Jagger Richards, Ruby Tuesday fu scritta interamente da Keith Richards e da Brian Jones, sì, non Brian Johnson degli AC/DC. Che nel brano suona il recorder, dal suono simile a quello di un flauto. Ruby Tuesday era una groupie, il cui vero nome era Linda Kate, molto legata a Richards, che era scomparsa da qualche parte, lasciandolo solo di fronte solo ad alcune sue parole, a una chitarra, un pianoforte e a un paio di mutandine. Sporcaccioni. Che bella frase. Complimenti. Va bene. Completata nel 1966 in una stanza d'albergo di Los Angeles e registrata nel gennaio del 1967. Uscì come lato B di Let's Spend the Night Together, ma fu scelta dai programmatori radiofonici come lato A perché Jagger rifiutò di cambiare il testo della canzone su cui stavano puntando. Nessuna radio avrebbe mai trasmesso una canzone dal titolo Passiamo la notte insieme nel 1967. Quando a Led Sullivan Show invitò allo studio televisivo i Rolling Stones il 15 gennaio, suggerì una piccola sostituzione. Let's spend some time together invece di Let's spend the night together. Jagger fece una controproposta. Let's spend the night together. Della serie camuffala un po'. Passiamo la notte insieme. Invece Sullivan disse no e Mick accettò il cambio di testo, ma accompagnò il verso del ritornello con espressioni facciali tali da rendere ancora più pesante il messaggio, così che le radio nemmeno provarono a fare la stessa richiesta di cambiamento e andarono immediatamente al lato B di Ruby Tuesday, scelta davvero azzeccata, anche se non immaginabile all'epoca. Rolling Stones, Ruby Tuesday. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind. Bene, ora andiamo a parlare dei Pink Floyd, giusto? Sì, Pink Floyd. Era l'ora. Sì, Emily Play parla di una ragazza che Syd Barrett, leader della band, stesso ha rivelato di aver visto in una foresta mentre era sotto l'effetto di droghe allucinogene. Oh vai. E torniamo al discorso di settimana scorsa. Non vi drogate, non vi drogate, non vi drogate. Non vi drogate. Effetto ricercato dalla. Mi viene la bocca come Steven Tyler. Un Perù, due Perù, tre Perù. Pensate che la bocca che alla fine vi mangerà. a voi direttamente. Effetto ricreato dall'atmosfera psichedelica della musica e del testo al limite del no sense. La ragazza sarebbe in realtà l'artista Emily Young, figlia del barone Hilton Young, soprannominata Psychedelic Schoolgirl. Insomma, studentessa psichedelica. Era una cittina modello. Tranquilla, sì. Una ragazza tranquilla. Sostituirei la M di modello con la B. B. Poi fate voi dove mettere la B. Nel 1973 David Bowie, autore tra l'altro di una cover di un altro classico dei Pink Floyd, Arnold Lane, scusate Schwarzenegger. Se è poco, Schwarzenegger. Sì, ha registrato una sua versione di See Emily Play nell'album Pin-Ups. John Frusciante, chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, l'ha interpretata durante un concerto con la sua band nel 2007. Altri gruppi della scena progressive hanno inoltre realizzato cover della canzone. Pink Floyd, See Emily Play. Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three gates away. See Emily play. Soon after dark, Emily cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Touches the ground. Float on a river forever and ever, Emily. Emily. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games to play. See Emily play. Sì, sì. Pink sì. Floyd. Sì, sì, sì, sì, sì. Sì, Emily Play. Appunto, sì, sì, sì, sì, sì, sì, Emily, sì, Emily, sì, Emily, sì, Emily, sì, Emily, sì, Emily, sì, Emily, Play, play, play, play. Vabbè, ragazzi. Finita. Finita, la storia del 67 è andata. È finita, è andata. Settimana prossima, 68. Anzi, forse. No, forse. No, no, no, no. Settimana prossima, 2. 1902. 1902. Detto, faremo la puntata sul rock. Radio F. 1902. C'era quel tuo amico astronomo di settimana scorsa, Pato? Vogel. Ah, Vogel. Vogel. Er Lampada. Lui era del 1800. Un astronomo tedesco del 1800. Sì. Bellissimo. Nato veramente, nato quel giorno, settimana scorsa. Vabbè, auguri. Auguri, ancora, ancora. Grandissimo astronomo. Ma chi lo conosce? Er Lampada. Anna Marchi. Adesso per... Forse lo conosce. Per adesso, per concludere la puntata... Sì, sì. Vi mettiamo abbiamo un po' di canzoni un pochino più moderne, scelto, via, diciamo, moderne, dai. Per la, finire la spaccatura, come abbiamo del detto maiele. Prima della scaletta. E la prossima canzone guarda che l'hai scelta te, cioè, io. La prossima canzone è Phil Collins con In the Air Tonight. Mm-hmm. Oh, bene, siamo tornati. La seconda canzone che vi abbiamo, che vi proponiamo ora è dei Killers. È estratta dal loro primo album, Hot Stuff, del 2004, Mr. Brightside. Questi erano gli assassini dei Killers con Mr. Brightside, scelta da Valerio. Ah, nostro, lo so, visto nano. Che canzone sono tirato fuori o no? Sì, ma se te scordi di Dilla che l'hai scelta. Comunque, cioè, a me, giusto così, apro e chiudo parentesi, mi hanno rubato lo sgabello. No! Mi hanno scippato lo sgabello. Ma quando? Sto facendo la diretta da in piedi. Ah, il biondo? C'era il biondo? Sì, non lo so, ma il tecnico è stanco, ha bisogno di un supporto. Te che c'è una schiena vicia, ti puoi stare piegato. Ma te stai a sedere tutti i giorni al lavoro. Comunque oggi veramente il tecnico era concentratissimo. Bravissimo, oh, bravissimo. Ma bravissimo. Infatti secondo me quell'altro lo confonde e basta. Si fa l'esempio di Pinocchio e del suo amico, come si chiamava? Amico Lucignolo. Pensate quanto siamo svegli oggi, non ci si ricordava Lucignolo. Comunque il bindi è Lucignolo, il Mazzeo è Pinocchio. Quando c'è Lucignolo insieme a Pinocchio non compicciano niente nessuno dei due. Di buona. Quando invece è Pinocchio da solo, peggio. No, vedi, sono senza sgabello, vedi un po'. No, comunque dai, Bindo torna presto, ci manchi, Non è vero! Non è mica in esilio. Accenderò un cielo per presto. Qualsiasi cosa chiama. Allora, andiamo avanti, dai, andiamo avanti. Adesso un po' di musica molto, molto più recente. I Rival Sons li ho scelti perché mi piace particolarmente il loro timbro, visto che si ispirano o comunque somigliano molto ai Led Zeppelin. Pressure in Time, Rival Sons. Siamo arrivati alla fine. Siamo passati dal 66. Abbiamo una dedica. Abbiamo una dedica. Sì, perché il nostro caro Ascanio Ferraro, presidente degli Azzurri, ricordiamolo la carica. Dunque, persona importante. Noi abbiamo persone di rilievo che ci chiedono. No, aspetta. Il presidente degli Azzurri è importante una volta ogni 10 anni. Però una volta ogni dieci anni non iniziamo. E sono io, Alessandro Caroni, a dirti non iniziamo a parlare di carnevale. Perché no, non si finisce più. Ok. Comunque abbiamo una dedica. Lui ci ha richiesto una canzone dei Queen Bee, The Queen Bee, Honey Bird and the Beardies. Che è uno scioglilingue. Sì, più o meno. E gliela lanciamo, gliela dedichiamo. Con tutto il nostro affetto. Messaggio per i supermuscoli che vivono in città. Per tutti quelli che hanno le orecchie aperte, sono pronti all'azione. Mi è appena stata fatta una richiesta da parte dei Gramercy Reef. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello. Zen. Quando got buzzed. The queen bee was buzzed, and you know this happened when she was buzzed. The bees by the lake hid under a fallen log waiting for me. The breezes swayed, the zip zap steamed is in my skin. Eyes under attack, eyes under attack, and I thought, why am I under attack? Why? Why? Why am I under attack? Why? Why? 'Cause I'm so stinky sweet, showered in pink lemonade. You spilt it on me, riding on the bus. Did you want me to get there by stingers, or was it too close to me? Finali. Noi siamo arrivati alla fine. Ciao. Allora, ricordiamo la pagina Facebook col Time Rock and Roll Radio F Valdichiana. Radio F Valdichiana. Ricordiamo il podcast stasera lo mettiamo, via. Ricordiamo anche il contest, quindi le canzoni. Sì, il concorso della prossima settimana. Canzoni nuove e speriamo anche nuovi vincitori. 5 canzoni ogni settimana che dovrete votare e la vincente andrà in onda. Vinto io. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Più bello.